Finali, te l'ho messi, Alle metà tolta non lo devo sapere, lampa zero, aiuto. Non voglio niente, gli ho detto, di mano opera, te l'ho fatto per favore. Tutta questa cosa gli ho detto. Non ne vale neanche la pena, fregatene, oh, Natalia. Prenditi uno di quelli cinesi, 30 euro, e se la piglia in culo. Come ho fatto io. Ah, te ne avevo pigliato due, uno l'ho regalato addirittura, l'ho regalato a Taxillello, quello da 40 ampere, figurati tu, per quel barattino che avevo preso io, e pensa anche tu, poi la canola pesca, l'ho regalato, cavo, eccetera, l'ho regalato tutto. Quindi è come andare direttamente a dire ai cinesi e prendere uno, l'alimentatore e te lo tiene di riserva, 40 ampere, ci sono. E sono anche belli adesso, sono meglio di quelli di prima. Vuol dire che già me lo buscherò uno, cosa vuoi ti dica? Io ne avrei voluto uno di quelli normali, non a scheda. Normali. Ma normali che sono quelli con lo watt, cioè col voltmetro, con l'amperometro, il trasformatore. E allora col trasformatore, allora lì ci vuole una schedina, c'è dentro, c'è il voltmetro e il l'amperometro qua a me, qui ci sono, questo è di quelli grandi, 30 ampere. Già lo so, venivano 100 e passa, cioè 200 euro mi sembra venivano quelli, se non mi ricordo male. Scusa, guarda che c'è un coso, mi sento, lo vuoi prendere, uno l'hanno messo stamattina, 3,50, un 6,80 c'è, nuovo. No, non ne voglio pigliare, no, di quella roba, intanto si faccia, sono vicino, è roba vicina, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Ma 3,50 è buono, va bene come prezzo, non è che tu chiedi di più, 3,50 e un 6,80 va benissimo, non è che devi spendere, cioè non è come il Gix, quella cagata, capito, che si brucia la ventola, poi si lampa il tutto, già lo sai, Gix 2, Gix eccetera eccetera, quelli modello vecchio, ma vecchio, peggio di quello, a meno che vuoi un 3,80 va bene. Questa stamattina l'ho visto me, l'avevo appena messo, 3,50, va bene come prezzo, non è né di più né di meno. Secondo me avrei preso quella posta lì, dei 4,40 che c'eri tu, in pratica. Se ci avessi anche risparmiato non sono l'altro, se avessi venduto il tuo, avete aggiunto cosa tipo su 10, 100 euro nemmeno, cioè neanche 100 euro, e ti avessi pigliato con l'altro. Sì, lo so, ma no, non ne ho idea, di comprarmene di quelli. Mi chiamo Gianni Donadelli, ho 66 anni. Sono uniformato. Cosa, ma raggiungi di sul sisso? L'ho solo pulito col pennello e buco. Quasi 8 anni. Non gli ho fatto fare nulla a questo alimentatore. Senza chiavi, senza porta. Non metta nulla, no. Magari pulendo col pennello e toccare. Si sono toccate magari due distanze assieme, una fianca all'altra, o due transisto e è andato in fumo. Cosa ci vuoi fare? Sono alimentatori che non, cioè, quando li hanno costruiti la prima serie andavano bene, la seconda serie facevano schifo, si bruciavano da soli, andavano non funzionavano più, vai con il finale, sono tutti, non c'è manco un finale, cazzo, che riesce a controllare, manco con la lente, a vedere che sigla è, il bello è quello, ce ne sono 8 mi sembra che ce ne sono, e cosa fai quando cambi il finale? Non fai nulla, lo stesso. Lo so, finale ce n'è uno solo. Si tocca quello qua. È abbastanza superficiale. Non ce n'è altri di finale. Uno solo, gli dici. Gli altri due sono qui, però non è attaccata nessuna roba di ferro. Poi pizza che fa l'installazione. Magari è scaldato quello e si è bruciato. Cosa vuoi dire? C'è ancora la cicatrice. Perché tu lo accendi? Accende la luce e si stacca subito. Non c'è nessuno. finale, non ti preoccupare, ce ne sono 8, ce ne sono 8. Ce ne sono 4 da una parte e 4 dall'altra, sono sotto lo chassis. Sotto il circuito stampato sono, ci sono delle lamelle sopra, agganciate, l'ho smontato me, uno di quelli di metatore, te lo sto dicendo per quel motivo lì. E ho capito. Cazzo, non gli ho fatto niente, tu. Apro dimmi un porta in genere. Cosa vuoi ti dica Natalia? Anche cosa? Antonio Glotte, la stessa. L'ha portato lui mi alimentatore, te lo ricordi con Antonio Glotte? Beh, eppure fu tutto di sì e avanti ti diceva quello. Quindi pigliati uno di quelli di cinesi e vaffanculo, ti stacchi l'amperometro, il voltometro, ti prendi una scatoletta e glielo piace, non ci vuole molto, no, a fare questa cosa. Ci sono due uscite addirittura a 12 volte in questi alimentatori cinesi. Hai capito? Già lo sai fare quel lavoro, non è che sia difficile farlo, no? Agganciare un voltometro e un amperometro, no? All'uscita. E c'ho questi qua, cioè la scatola ce l'ho. Anche alla possibilità. Volendo, questa di smonto questo qui. Appunto, smonto, quello lì e ne piace un altro. Non ci vuole molto, no? Io l'ho fatto io. Io l'ho messo dentro una scatola di quello di cosa, di salvanza lì, stato di salvante il mio. Alimentatore quello per il campo. E grazie a Dio si è mai bruciato, funziona benissimo. L'altro ho regalato, quello 40 ampere, te lo sto dicendo, adesso appena sarà il momento opportuno me ne prendo l'altro, l'alimentatore 30 ampere, perché mi serve. Capito? Per provare altre cose, vabbè. Poi c'è un alimentatore 24 volts, quello è già bello grosso, quello del lineare. Devo staccare solamente il lineare, cioè il circuito stampato che c'è del lineare e cose del genere, mi metto due boccole grosse e mi metto il lineare esterno, quello per il camion, che va bene. E posso alimentarmi ciò che voglio, dopodiché mi faccio l'alimentazione da 24 a 12. Io mi posso alimentare tranquillamente un apparecchio a 30, 40 ampere, 50 ampere, non succede nulla. E infatti lo sto alimentando con quello là. Capisco, ma funziona. Funzionava tutto da questo che c'ho qua sul tavolo. Black. Ehi, hai gettato, ciao Anto. Saluto. Adesso c'è un numero di stazionale, ragazzi. Uno e uno, uno e due. C'è una carta di massa nella palo io c'ho. Come piove, già è così, c'è. Il palo da cambiare ciò, ragazzi, va vaffanculo, ragazzi. Ecco perché ieri mi ha fatto quello scherzo. Aspetta un attimo. Beh, adesso sei a 70, mi guarda, ieri a 50. Aspetta, ti do mica. Adesso sì che ci siamo, la certo, vado. Ciao Antonio, è entrata, vado. E campa, salutoni a te Natalina, a te Antonello. Da me manco Rubello l'ha cucato. Così era, così è rimasta nelle stazionarie, le ho messe da te prima di andare a dormire un po', stavo lavorando oggi, prima di andare a dormire, manco il pelo gli ha coricato. No, a me me lo fai riparo, me sono accorto adesso, c'è problemi di palo, cioè, massa di palo, palo, adesso ne butto giù quel palo lì, appena riapro dopo le vacanze, piglio il palo telescopico, e questo palo d'acqua ce lo butto nella mondezza, la zingatura, cioè a meno che non... Lo ripasso, ho stato a Bossi, vado alla zinguazzura e sopra la zinguazzura e rimetto nuovo l'antenna di prima. Allora sì che le cose no, sono tranquille. Se va via, siamo attaccato. Ieri mi sono visto un cazzo da scendere a 50 e me ne è sceso a 44. Poi ho preso, ho giocato un po' che sia, mi sembra un pochettino strano, poi sono staccato tutto e ho messo il 2009. Ha attaccato con l'unione e mi dava 50 watt nel 2009 con questo qua, adesso me ne sta dando 100, quindi è mancanza di massa. Beh, sicuramente così. Boh. No, non ho problemi io, per fortuna, cioè, no, non ho problemi. Ho provato poco fa che ha diluviato e cosa, ma un colpello gli ha coricato. Stazionario è zero. Vabbè, io c'ho un palo che c'ha 20, cazzo, quasi di 7-8 anni, quindi figurati tu. Quindi è per quello che fa quell'effetto lì. Comunque sì, già va bene. Adesso cos'è visto di problema? È mancato di massa. Anche perché l'antenna non c'era radiale, allora la mantova faceva così. Quando ci sono 8 radiali, gli 8 radiali ti fanno una massa, più che altro, anche se tu massa nel palo non ne hai molta, ti fanno una massa e quindi piano riflettente, e non te ne accorgi. L'unica cosa che ti accorgi è quando cominci a pompare, se ti metti a pompare ti abiti subito, salvo la stazionaria perché gli manca il coso, capito, per sfogare. Beh, normale. E quindi adesso ho già capito. Adesso 27 vanno mi piglio il micro, preparo la bricola, un alimentatore da 30 ampere e poi vediamo un pochettino se mi serve altro. Perché lo sai come? Perché l'altro giorno la muraglia non c'era, non so ne. Ma chi lo stai comprando l'alimentatore? Questo me, perché io l'ho regalato io a 40 ampere. Ho regalato l'alimentatore a 40 ampere, il baracchino, quello nuovo, il scatolato l'avevo tirato. Per il Covid, quello omologato che ho avuto anche la carino. Poi gli ho regalato il cavo e la panna canola a testa. Ho capito, insomma, ma ho detto da chi lo posso comprare, che l'altro giorno non c'era da 30 ampere, da chi lo posso comprare se lo voglio più forte? C'è dato, quel negozio che c'è a terra la banca, Unicredit. E dov'è? Dietro la banca del credit, non c'è un negozio dei cinesi. Lì li ho visti, gli imitatori. E dico in che via? Che via? Lo di credit che c'è a Pesanietta. Ho capito. Sto pensando dov'è. E adesso, vabbè, non ce l'ho più presente, vabbè, momè, la via adesso. Quindi dovrebbe essere comunque per andare da Bricoman, prima di Bricoman dovrebbe essere. Forse ho capito dove viene, ecco, già ho capito, però dove c'è scritto ferramenta, casa o altre cose, quello è. C'è il coso, c'è il marmo, dietro proprio, come si chiama? Dietro l'Unicredit, c'è l'Unicredit, molto bello, lui ce l'è presente. Sì. Attacca molto bello. Io ci compro sempre lì perché c'è il capannone vicino. Esatto, vabbè, adesso c'è il mercato dei pulci che ho visto ieri. Scala 4, la pedaniera, evidentemente non so di chi sia la verità. mercato delle Pulci e di fronte al Conad là. Non so, sta a quanto c'è scritto, c'è la fotografia, poi non so cosa diavolo. Vabbè, stavo bien puro, facendo frutto. Se c'è me lo prendo e perché mi serve adesso un altro alimentatore così grosso. Io ce l'ho un alimentatore di quelli grandi, a trasformatore, con condensatore, cose del genere, capito? Quello che io da 30 ampere c'ha, l'ho aperto solo una volta per pulire la ventolina e basta, è sempre funzionante. E Natalina ha pulito la ventola e si è incurato stamattina con quei proxer, lo sai come sono fatti i proxer, no? Quindi erano belli fino a quando li hanno costruiti, dopodiché sono spariti la circolazione, no? Erano tutti difettosi. Aspetta che mi sta chiamando un attimo Simone. Cioè, ma quello che io funziona benissimo. Natalia, ci sei? Sì, stai attento, non lo aprire più mi, perché a me mi si è crepato uno da 30 ampere poco fa, mi stavo pulendo la ventola e adesso accende e subito si spegne, se ne va subito in protezione, chissà cosa mi ha sorteggiato. Ma la ventola non parte? No, parte tutto, però subito si spegne, come lo accendo fa tac, dura un secondo e si spegne, se ne va in protezione. Forse perché si scalda. Cosa scalda? Se è freddo. Non l'ho usato per niente perché non funziona più. Se ne va in protezione. Meno male che ne avevo un altro da 35. Però me lo devo buscare un alimentatore di come ti vedi. Cappa, se lo trovo uno uguale al mio da 50 ampere me lo compro. Se quanto vanno bene, io ce l'ho da 30 il mio, quello che ho io, funziona benissimo. E vabbè, anche io ce l'avevo, ce li ho da 3, un altro ne ho da 35, lo sto facendo andare con quello, capito? Però sono quelli switching, non è bigliare, ti si rompono subito. A me mi si è rotto oggi, ce l'avevo un sacco di tempo. Sono andato a pulire la ventola col pennello, l'ho smontata e tutto, l'ho tornata a mettere, però non accende più l'alimentatore. Ah, che non sia in una specie di termostato, che non sia quello partito. Che termostato? Che quando arriva a una certa temperatura, cioè se c'è un guasto che si stacca. Non arriva nessuna temperatura. Si accende e si spegne subito, quindi non arriva nessuna temperatura. È qualcosa che andate in ora a mare, per quello che costano come il bigliaio nuovo. Io ce l'ho da un bel tempo, quel switching che ho io, di quelli, cazzo, non ha mai sgarrato. Io solo la verità, ne ho aperto una pulita, poco poco la ventola e basta, e l'ho ripiazzato, no? Non ha mai sgarrato un colpo. E io lo so, però purtroppo, questo qui è andato a fanguala, adesso se non riesco a aggiustarlo, lo smonto e mi tengo la scatola che può servire. È bello amico, gli strumenti, cazzo, tutto. E tu cazzo mi sei fregato. Più sono complicati e più rompono le balle. Meno, più sono semplici e più durano nel tempo. E infatti. Guarda che io l'avevo pagato un 30 euro, così l'avevo pagato. Ok, non mi ricordo. Ah, mi ha mascherato un colpo, sempre andente. Ne ho altri due, ne ho ne ho forse ne ho un altro di scorta, ne ho. Da quanti ampere? Da 30. Ne ho uno di scorta, non si sa mai che mi si bruci. E io pure ce l'avevo di scorta, a me che mi si è bruciato, dice. E chi c'ha Iadina, Natale? Oh, e questa che sta cantando? Sì, già. La televisione. Esso che roba brutta. andate a ammazzarla nel pollaio. Una iardina a barica. Sì, roba brutta. A tirare con pareggio, a tirare a rigaro. Manca a rigaro ne voglio. Gioia. Fogarizzare. Sono entrato. Sì, avanti a noi. Stavo, mi ha chiamato il condominio, perché quando ho pensato questa da qui dalla parte dell'antenna dove c'era VU, immediatamente mi hanno chiamato che mi sentivano nell'impianto audio, non so di dove. Strano, allora. Adesso l'hai tolta, l'hai messa dove c'è la mantova. Non mi sono messa la mantova, vuoi fare? Ho bisogno che non mi sono messa la mantova. Adesso la mantova la sto sistemando, domani ho una bella passata di mola, la basetta, gli agganci il piede nuovo, poi gli agganci radiali, e appena fatto il tempo, prendo e ce la metto sopra. Attento, con l'alluminio mi non toglie il protettivo, se no non va bene. L'alluminio è a posto, non sa niente, lo stiro l'alluminio è a posto, non ho mai toccato io quello. Devo pigliare, lo metto una diana che mi manca e basta. E l'aggancio è fatto. E c'è il nuovo motore di aria. E durante 10 anni, l'unica cosa che ho cambiato, che ho modificato è l'attacco devo modificare, ancora non l'ho fatto. L'attacco della base con il PL, cioè in pratica potrei avere il cavo da uno, li metto quello, li ho messo quello da due, quindi posso pompare molto di più di quello che pompavo prima. Infatti. Vabbè, se succederà che qualcuno fa qualche lavoro in qualche centro, che sono adesso per le parti, io vado da lì, da prendo con la mola e taglio tutto e mi prendo i pezzi. Da uno ne faccio due, da due ne faccio quattro, da quattro ne faccio sei, hai capito? No, aggiungo che ho preso una cosa, perché non hanno fatto direttamente attaccarlo diretto il cavo. Ah, forse perché ci va il grosso il fine. È quello che stavo pensando anch'io, mio, di fare quella modifica. Agganciare direttamente il rigido 113 alla base e alla bobina agganciare direttamente il polo positivo. Fanno uscire fuori, fare il buco grosso, cioè tranquillo, avete pompato 3-4 mila watt, tranquillo, l'antenna non se ne sarebbe scesa, finché pure, ma sicuro. No, nella mia c'è il capo grosso, cioè c'è il coso grosso, c'è un capo rigido grosso. Ella è stata modificata. Vabbè, l'ultimo è stata modificata, se no non puoi comprare. Dice, beh, va a ridere, cazzo, che c'è l'attacco del PL e un cavetto da uno, agganciato alla bobina, è da ridere. Quindi l'unica cosa che devi fare è fare atto che togliere quel cavetto lì, mettergli un altro, molto più grosso, anzi al limite il rame è ancora molto meglio, come si faceva una volta. Sul termo restringente che non passi a Eva. La prima ringo che hanno fatto era tutta a rame, diventava verde di colore, ma era un tubo, era quell'antenna, capito? L'attacco di PL era agganciato alla piastra del rame e non è mai successo niente, la verità. La mia è stata modificata, è stata messa un filo rigido tutto il rame. L'unica cosa da fare così, ci vuole un senatore quel tipo di per saltare, ci vuole applicato l'acido, no? Agganciato all'aggancio del PL con la batterite, dopodiché non puoi altro che saltare con lo stagno, quello per i morti, sono le casse da morte. E sopra senza sentire cosa vuol fare, sto tranquillo che con lo stagno non si scioglie. Mi pare che è stato fatto un lavoro del genere. E appunto per quello mi ha messo un capo rigido, di quelli rigidi, bello grosso. rosso. Sei infatti che sono porta 40 e che so io. E non entrare, vai. Oggi ho provato, come era, è rimasta. Zero, quasi zero di stazionare, non si muove neanche. Ah, quando non è entrata, che non è spugnosa, cioè la plastica non è spugnosa come quella originale, capito? L'originale che mettono è spugnosa, quindi l'acqua te li fitta all'interno e lo stilo se ne scende giù. La mia non è così. Però se tu prendi la misura della bobina che fai sotto le spine, giusto? No. La fai una spina solo, no? Dopodiché prendi e l'agganci, sono sicuro che l'antenna dura il doppio e poi fa anche il doppio solare. Sa che io mi pare che c'è una vite che blocca tutto al centrale. Adesso non me lo ricordo, la verità, comunque sia, è così. Io la vengo avuto, l'ho avuto così. Se tu vuoi guardare le foto, la ringo per la propria. Era fatta tutta in rame, l'ha fatta. Diventava a vedere il colore. Dopo 5, 6, 7 anni, con la giapata sociale, come si chiama, il CVC, si scioglieva il verde del rame e l'antenna era perfetta, come prima, come la nuova. Antonio, dimmi. Guarda che gli ho messo a questo qui l'MC60, come sta andando? E dove l'hai messo? Ah, un altro che ne ho. Gli ho messo l'MC60, perché al posto di quell'altro nero. Microfono normale, sembra, cambia l'imperenza, magari. Aspetta, gli alzo il macchinino, guarda un po', adesso gli ho salito il macchinino. Adesso già va bene. Barrato. Bene, va. Già va bene, già. L'aiuto il barrato, quindi figurati, va benissimo adesso. Gabba gabba. Poverino. Tore, caro. Adesso che caro è. Certo che andiamo, beh, andiamo. Cazzo, mi si è bruciato l'alimentatore da 30 ampere, quello switching che avevo con gli strumenti. Se ne va in protezione, chissà cosa mi ha sorteggiato. Se ne va in protezione? È il fusibile, guardato là, perché dentro c'è un fusibile lì. Lo so che c'è un fusibile. Ma si accende subito, si stacca, capito? Quindi non è il fusibile. Chissà cosa mi ha sorteggiato. Sicuramente qualche resistenza che se ne sta andando, o qualche condensatore. Non lo so, già lo farò vedere da chi li sa aggiustare. Solo che mi dispiace per il motore, è bello questo a 30 ampere. Lo sto usando adesso con l'altro che avevo da 35, sempre quello con gli strumenti, uguale come alimentatore, da cazzo, solo questi switching sono un macello, ne devo buscare uno che non sia switching, di quelli normali. No, io me l'ho comprato uno da 30, questo Telecom, che ha il display digitale, è da 30 ampere, Telecom. E poi mi ho comprato quell'altro da 55. Ma quello switching sono tutti e due, così è. Sì, non c'hanno cosa, non c'hanno, come ti si chiama, la cosa pesante, già mi hai compreso. Non sono di quelli lineari, da, sono di quelli switching, come quello che avevo io, che mi si è bruciato a me. Sono andato a pulirgli la ventola e non ha più funzionato. Vai due a pillare. Vuol dire la ventola non gira, se ne va in corto, se ne va. No, che gira, attendi ma un secondo e la poi subito si sacca. Vuol dire, prima, che cosa è in corto? Cannegucci, c'è qualche cosa in corto, qualche diodo, o deve essere. E adesso vedo, là. Bene, sta andando questo MC60, Salvatore. una bomba, una bomba. È buono. Quell'altro che c'era? Chi è che c'era? Perché lo sentivo male. A me? Salvatore non mi sente. No, ti sento male, ti sento, ma ti sento male. Ah, mi senti, ma mi senti male, perché sto pompando. No, ecco perché, aspetta un attimo. Guarda, adesso ha migliorato qualcosa? No, non ha migliorato per niente, sembri che si... fuori frequenza. Io lo sento benissimo, certo. Adesso sono staccato, guarda un po'. Ah, adesso ti sento bene. Poco fa eri, che sembrava che eri fuori un pochettino di frequenza. Adesso ti sento benissimo. Mi sentivi leggermente sardo, ma più che altro. Capito? Già va bene adesso, no? Va, sì, andi bene. Se ne andi bene, dagli un pezzo. Sgraziato. Ehi, così. Ma te ne immagini questo pompone sempre pompando, sta pompato, lo vedano. Certo che c'è un watt di questo lineare che c'ho piccolino, lo speed CTE, che mi dà 100 e passa watt, con la valvola americana ci vuole molto. Ma che ha bisogno andare da attaccarlo, non ha giù compreso, che non ci intendiamo, dai, non bianchi, vi intendiamo mettere in onda. Sì, ma se tu lo fai scaldare i lineari, lo sai, i condensatori che fine fanno, no? Cioè, lo sai, ogni tanto bisogna attaccarlo. Era più di 3 mesi che non agganciavo, figurati tu. Ma io ti sentivo bene. Ciao, dottore. Ciao, tu. Se tu lo sentivi bene, io lo sentivo tutto distorto, lo sentivo. E quando si sente distorto vuol dire che pompa indietro. Ma la tira se vuoi, la do io la pompa della bicicletta per pompassi. Ah, ci bisogna la pompa della bicicletta, sta tranquillo. Ricordo per farlo girare, capito, ogni tanto questo lineare qua. 100 watt non è che siano molti, Emilia, lo sai, c'ho 2 valvole io qua, anzi una, per esattezza, americana, ma una. Guarda, me ne volevano dare una, zitto, fa una cosa, poni il fungo, io non me ne posso nulla. Certo, sento tutti benissimo, arrivo in tutti i posti, quindi... Vabbè, se ti volevano dare un lineare in regalo e non l'hai voluto, cosa ti posso fare? Vabbè, se lo possono regalarmelo, già me lo prendo. Non è che me lo vendo come fanno un sacco di gente, no? Me lo tengo a casa, il discorso è quello. Perché mi serve, no? Non è che devo farmi i soldi, no? Non mi interessa, capito? Fare i soldi ormai non interessa a nessuno. Mattarino! Poi a soldi! Cosa di duri? Un pezzo di duri? Sto piangendo per quell'alimentatore. No, quindi fallo vedere solo e basta. Non piangere. Non piangere, Natalino, non piangere. Guarda, se vuoi ti do quello che c'avevo io, anzi quello che c'ho io, che non ho ancora sistemato, la verità. Ha sistemato i dolci di casa. I ponti di io li ho comprati, ma vuole solo applicato e basta. Non vuole fatto altro. Quindi se c'è 100 euro in mano, il mio a 30 ampere, un trasformatore che pesa capo più del come si chiama, del cable, figurati tutto, già te lo dico che tutto in fretta con 2 manecce. Quindi se c'hai 100 euro, se lo porti via, ti metti lì i ponti, anzi, non ti devi proprio niente, devi solamente agganciare i ponti io, non devi fare altro, perché io ancora non l'ho applicato. Gliel'ho comprato, l'ho messo dalla parte perché ne avevo le balle piene, cazzo di stare, cazzo, ogni volta cazzo a cambiare l'estate con ponti io, perché scaldava e cose del genere. Quindi, e mio già lo sai che c'è il voltometro, l'amperometro, poi c'ha la gente per le caso del corpo che si spegne l'alimentatore eccetera eccetera, già sai, mio modello vecchio Alfa Electronic, i primi che sono stati costruiti. E poi Google non che sia cosa, trasformatore? Io so che cosa più trasformatore che è quello che c'è dentro, la verità. Io ho l'Alfa Elettronica, il trasformatore pesa un bel, ma sai cosa dire parecchio, già se lo ricordo la carina, già l'ha visto. Io ho le balle piene nel caso di stare ogni volta con questo cazzo di emettitori pesanti e cose del genere. L'unica cosa è che mi hanno regalato a me il PS1012 e mi sono tenuto questo piccato e l'ho regalato a Giovanna perché non lo voglio mai sapere. Hai capito? Io uso adesso quelli cinesi e se la prende il culo, devo stare cazzo con questo limitatore, con il trasformatore, tutto un tratto poi prende e il trasformatore parte e in pratica il tassista porta un cazzo la 12 volt, te ne da 15, 20 ti brucia il baracchino, a me la vai. Lì, a San Giuseppe, allora. Quelli normali costano un sacco di soldi, mi. Vabbè, io ne ho uno vecchio TBC, funziona sempre, è una bomba. Guarda, io ce n'avevo uno, perché c'è ancora una parte che c'è il trasformatore dentro, però si è bruciato una resistenza e è andata anche due paesi, ce n'è andato. Lo so, sono vecchi. Cioè, ma pensava che cosa amara, pensava. Ci ha giocato una parte, dirà giocato. Adesso non so, ho comprato questi, sono leggeri, funzionano bene. Funziona, che è un amore, funziona. A me qua mi sta dando 2,983 amperi. Già, vabbè. A voi, c'è lo schermino digitale, c'ha, quindi, a voi. Ne non usa quasi più nessuno quelli così pesanti. Li usano, però che si consumano il muro. Hai compreso che consumano? E gli altri che consumano. Poi cioè, con questo non consumano quasi nulla, non consumano. Ecco cos'è. Consumano quando magari se tiri un po', ma non consumano niente a confronto a quelli. Sono 30, in realtà sono 30 più tutta la situazione. E infatti, vedete che è un trasformatore. Guarda che c'è anche il coso, nel caso vuoi alimentare un baracchino. Quelli alimentatori del computer, modificati, vanno bene lo stesso, 15-20 ampere danno a un certo punto. Un sacco di gente l'ha modificato, se l'ha venduto, figura di tutto. Io mi pare due, tre innaggio il computer, messo a una parte. Ne ho tre. Di quello che devo usare io, però devo capire. Ah, io guarda, sai cosa ho fatto? Quando c'avevo il garage pieno di quella roba lì, alimentatore, eccetera, eccetera, smontate, ho preso, ho fatto tutto un viaggio, lampade e tutto, aiuto a quello del coso. Ma l'alimentatore di voi, prendite, gli ho detto, a me non me ne frega niente, gli ho detto. Non devo stare a uscire di testa, ho detto, per farmi la modifica, eccetera, eccetera. Non me ne fotte nulla, gli ho detto. Ci vuole una panina a 5 volts per dargli un impulso, eccetera, eccetera. Ma va a far culo, ho detto. Dammi le cosa ti piace tutto, gli ho detto, te le misuri, quello che c'è, sai, cazzo tutto, il motocarrozzella, le lampade, tutto, poi se ho avuto le vetture, ho detto, tutti tu, ho detto, la roba, computer, quello che c'è, buttaci tutto, gli ho detto, non me ne frega niente. Fatto bene, non faccio giusto, tanto non mi va in nulla. Andiamo. Ho visto anche dei cinesi che ci sono anche quelli senza vento, l'ho visto. Io ne ho due di quelli lì. Quelli dei cinesi ne ho due da 50 ampere. Però li ho lasciati a una parte in caso di che mi servo. Aspetta, ho sentito Eugenio. Eugenio! Ciao Eugenio, buonasera. Avanti, ripigliatela. Anto. Eugenio, buonasera. Com'è lì? Sta sgocciolando? Salvatore di Sassari. Ho detto, se lì sta sgocciolando. Ovviamente giù parecchie volte. Cosa ti ha colpito? La testa ti ha colpito, la salsina. Andiamo, cazzo, bubu. Anda. Guarda lì, dice Guado. Sto mangiando noccioline. Mette le scimmie, sì. Eia. Guarda, dice come mette le scimmie. Magna, è già vita. Yeah. A dove te girai, mentre le scimmie. Ehi, io ho sentito già. Stasera mi sono messo a ridere perché ho pensato un'antenna a PMR, una di quelle VEUMI che montano gli apparecchi laboratoriali, aspetta, come diavolo si chiama, uno standard, mi sa da che, se non mi ricordo male. Ho preso il schiacciato e mi ha risposto uno, mi ha fatto, tu chi sei? E no, io sono Antonello. E tu chi sei? Io sono un musicista, mi ha detto, E ha detto, ma dove sei? A Saggetta? No, poi ha preso, l'hanno fatto direttamente chiudere, cazzo. Una delle gomme bella grossa, mi sembra un come un. Posso dire, il doppio di quella del Bonfeng. Figurati, ma cazzo dicevo un bene meglio. Quindi in corso, a casa. Dove sono adesso? Una cosa allucinante, cazzo. E via di zitto. Sono sempre io. Dove mi hai portato tu il Saturneco, abito sempre io. No, negativo, sono sempre qua, anzi è stato un eco tuo, l'ho sistemato e l'avevo venduto a cosa, a Piero Drago, e quindi figurati, esce benissimo quell'apparecchio, mi ha fatto diventare scemo per una settimana, anzi più quasi un mese, e cos'era il trimmer, cazzo, difettoso. Prima poi c'era un condensatore gonfio eccetera eccetera, ma come spesa ho speso, se no posso dire €1,50, ho detto a Pie, quando ho provato ho detto Pie, vuoi un apparecchio, mi c'è un Saturneco, viene a prendere, ho detto, è venuto alle 8:30 del mattino, figurati, poi ma accusando lo sta, figurati tu, quel Saturneco, una bomba quel Saturneco era. Vabbè, sono sbagli che si fa il lavoro, ma a me mi interessava più che altro avere un Kenwood e mi sono pigliato il Kenwood, quindi a un certo punto mi sono pigliato l'apparato per far fuori. Poi cioè avere 50 apparecchi in più non è che ti diventi più contento oppure no, la verità. Anche perché devi farli girare, quindi a un certo punto o ti danno problemi o difetti eccetera eccetera, quindi a un certo punto che ti ripeti pure. Ma c'era l'antenna? Sì, l'antenna ce l'ha, abita a Plattamona, ma non ho mai voluto pensare nulla, capito? Il discorso è quello. E quindi rispetto alla sua, non so, cosa devo dirgli? Vengo giù e ti piatto l'antenna io. No. Se non è stata lui, già è giovane e grazie a Dio già c'ha le forze. Se vuole installarsi l'antenna, ho fatto che fare due buchi nel muro, un palo e sta andando lì dove abita lui, il discorso è quello lì. Io più di quello non posso fare. Tutto lì. Ho capito. Vabbè. Ok, comunque era bello quella apparecchieria, la verità, funzionava benissimo, 15 watt, abbiamo aumentato di tutto, modificato, eccetera, eccetera, era una bomba, vabbè, vuole perché non mi sono pigliato, adesso, il discorso è quello lì, ognuno fa una sua scelta nella vita sua e basta. Infatti 140 ce l'ho, 140 uso, poi c'è questo 3009, c'è questo con il 4000, poi c'è un 3009, a un certo punto che fermo lì, fermo la tappata e non sapevo va, mi tengo gli apparecchi, cazzo, come fanno 100, cazzo, 200 apparecchi, cazzo, messi cazzo, uno a fianco all'altro, poi magari vai a accendere, cazzo, e manca accendere uno più, il discorso è quello lì. Ho dovuto fare con la scena, come l'ho pagato, l'ho rivenduto, tale guarda, non ci ho guadagnato niente, non ho sbattuto nulla per 1,20€, gli ho offerto un caffè, una birra, e è stato contento, per un amico questo è altro. Scappa, dai, bianco per me che adesso me ne alzo dal letto, dai. No, stavo lavorando stamattina, ero bucato stasera. No, sto facendo un altro lavoro. Il lavoro vecchio, mi ho chiamato a fare due giornate. Scappa, poi domani mattina e poi beh. Ehi, potete incassare, anche giornata, anzi forse è meglio. Almeno ce li hai, belli ti diverti. Scappa, poi esci mi hai messo, va. Va a cucarti, vai. E te se vai a Luca, va a cucarti. Sempre dormendo. Vabbè, è staccomi, c'è un figlio piccolo, quindi la notte non dorme a volte, quindi... Perché fa la morte. Adesso si fa il secondo figlio e vedrai che si fa per 24 ore, cazzo, non mi sveglia. Già c'erano i Meloni che dà 2000 euro a figlio. Ma è detto? No, Luca, non l'avete mai sentito. Mica c'è un coso, mica. Un 80 3,50. Stamattina l'ho messo. Ho visto il nuovo, venditelo al volo. Oro. Io poi non so se sono occasioni. Adesso mi devono arrivare due alimentatori e un HQ 315, un rasmetro wattmetro modulometro da fare fuori subito. Ah, okay. Ecco perché volevi il mio, cazzo, che tu stata io. Certo, magari sa tua, cazzo. No, no, non facevi prima di... ti pago un pranzo e cena per una settimana a casa da Cristian, almeno sei a posto. Sono stato discreto però, dai. Ma tu sei manco di questo, infatti ti ho scritto così. Se mi avessi pagato pranzo e cena per una settimana da Cristian, tanto quanto. Sarebbero stati a posto. Non che il Balacci fosse qualcosa che si dice più comparente. Allora, sempre comparente, pendente. E oramai siamo diventati a quello stato, per la verità. Oh, per carità. Il fatto che non faccio in tempo a metterli online, che sono già venduti. Non sei contento. Se avessi messo il mio 200 euro, se tranquillo avrebbero venuto, se avrebbero venuto subito a casa tua, ritirato. Anche il traghetto avrebbero preso. C'ho l'RM Italy da vendere, un RM Italy 503, da vendere, il Rosmetro HLSX 201 l'ho venduto. Già vabbè, no, io con ancora del coso già vabbè, mi sono avuto 300 e beh, mi si è pigliato anche il, come si chiama stamattina, mi si è 80, ma purtroppo non ho soldi, l'unica cosa è che ho la macchina, beh quella sì, vale 2400 euro, quindi la macchina che ho preso me la tengo, 2004, in contanti, voglio. Ah, preso te la. Bravo, non ho deciso di sì, ma com'hai? Che non hai visto la fotografia? No, non l'ho visto. Avevo cambiato le batterie, cazzo, gli ha costato le bocco, 500 euro cazzo costano le batterie. Quelle a, come si chiama, non ti dico a gasolio perché non sono a gasolio, ma già hai capito come le batterie che sono, cazzo. A gel. Sono quelle che uso io qua nei pannelli solari, per casa. Quelle lì, vabbè, le mie sono da 150 per l'una. Costano. Non costa minimo 5, non costa di più, no? Dimmi tu quanto costa. E questa ne monta 2, da 100 ampere, quindi fate i conti quanto viene. In questa macchina elettrica, sì, questa macchina elettrica. 4 ruote, per gli anziani si gira il sedile, da una parte all'altra, è aperta. Non è una macchina vera e propria, quella da 6.000 euro che vedete in villa, hai capito? Quella non posso prendere finché non c'ho la 104, quando c'ho la 104 mi prendo quella. Avevo avuto a spendere 24.000 euro oppure 16 per prendermi una cosa del genere. Questa l'ho pagata una cazzata, questa macchinetta qui, ci vuole solo mettere le batterie. Appena le metto le batterie, come ha fatto mio fratello, mi ha fatto cazzo, ti giù, tu immaginati cazzo, si faccia la foto. Scende giù, c'è il joystick, sale su, cazzo, è una cosa allucinante, fai più di 50, è modificata quel motore, ma pompami cazzo, figurati tu, quella almeno che c'ho io, c'ha 4 ruote, c'ha il manubrio, c'ha i due fari davanti, i due fari dietro, le quattro frecce, tutto c'ha, non mi manca niente. Vale, in pratica io ho controllato quanto viene 4.200 euro a comprare la nuova, hai capito? Se ho capito, se ci sono lì, le batterie, che proprio perciò la scelta aperta, parlando la batteria che uso io, del camper, per la cellula, per la servizio, la pago CVR, ma sono 140 ampere, una cosa del genere, al gel, AGM, a caricarenza. Boh, non lo so, io Giovanni ha scritto e mi hanno sparato 500 euro, 250 euro l'una, quel tipo di batterie, da 100 ampere. Se vai alla vendita, vai alla casa della batteria, sa, io le ho di me, tu lì ci compro le batterie dell'Arley, la batteria dell'Arley la pagati, cioè la paghi di sotto, su 300 euro, originale, originalissima, io l'ho pagata 190 euro alla casa della batteria, qui a Sassari. Alla casa della batteria a Sassari, quindi in pratica due batterie sono quasi 400 euro, 100 euro di differenza ci sono. Infatti, si trova, lo sai dove? All'ingresso, dove c'è praticamente la non la Genovese Gomme, da via Milano, per entrare via Duca degli Abruzzi, quella è, per salire ai Vigili del Fuoco. Proprio all'inizio c'è il gommista come giri l'angolo, che c'era la BNL e c'è la casa della batteria, e ha dei pezzi allucinanti con le batterie originali. Ho capito, vabbè, io ci vado, barba. E così mi faccio fare il preventivo e me le prendo le batterie. Così me